vedi? Siamo nati con queste storie, siamo nati per queste storie, geneticamente concepiti per il rito, miliardi di cazzate per giustificarne altre, come una parabola, sai, capisco chi mi ostacola, piano piano stiamo scuotando la sua favola, conteggi ciò che danneggi potendo calcolo, rinfo distanze usando soltanto testi maniacali, testimonial locali, tali cari, vari punti modali, chiari accordi vocali, non so te, ma qua noi ci siamo, sfatti del doppio, rulliamo al top, stop, chiedi troppo, troppo tempo, ma tanto non sai connettere, hai tutto il tempo che ti occorre per smettere, ammetti che sono con me, stessi lunghi 23 anni a trarre le sfide di chi non scrive come me, animati in cagati, incanalati nei tempi, dei percorsi l'hai saltata ancora in fisico, scelta le fibra 50-50, scritti che cripti, pipi, poi flip, cignicchi, dritti su affaccentauri con Mauri dietro la mente, e senta pure esattamente a sue facente, nutrizionale come centro placente, cordone ombelicale, testimone locale, maniacale, piatti per il mondo, noti per il transito, insito in noi, movimento a transito, transistor. Conteggi ciò che danneggi potendo calcolo, riempo distanza usando soltanto testi maniacali, testimoni locali, tali cari e vari punti modali, chiari accordi vocali, non so te, ma qua noi ci siamo, sfatti del doppio, rulliamo al top, stampo chiedi troppo, troppo tempo, ma tanto non sai connettere, hai tutto il tempo che ti occorre per smettere. Sarà un autoprodotto autosufficiente, promossi modus operandi, tagliente, lo mantengo efficiente, rifiutati i contratti se non vi servono a niente, viosi tra individui corrosi che individui tra stilosi, sinci neprosi dalle stronzate che sposi, contrario di occlusi versus astrusi, fusi fusibili restiamo impassibili, assibili e serpenti, con quella luce negli occhi e quel fanculo tra i denti, giacimenti giacenti di frammenti assenti, inclini a smottamenti. Non mi rispondi, solchi due mondi immondi, nello smog mi sformo, dormo con dogmi, per come pormi riformi sogni conformi ai deformi, che se mai, bene se vai, male se torni, ordinate i testi, ordinate i contorni, non lo promuovi un gruppo fatto in due giorni, sì, rimedieranno anche i respiri, intanto è la nostra merda che tanfe tu la spiri, palleggi le crew, spareggi tra crew, ti chiudi per di più, tu non si sa che crew spalleggi. Conteggi ciò che danneggi potendo calcolo, riempo distanza usando soltanto testi maniacali, testimoni locali. Vedi, è automatico, assimile esperienza, dominata e discarna. È così che gira, così, è un cerchio, gira il mondo, gira il mio cerchio, gira anche il mio cerchio. È inutile che ostacoli, non serve un cazzo, un cazzo uomo. Testa mobile, click, ritorna a trama. Shazan, il raggio, Ibra, Nestle Rice, Lato Monty Python, Rudy B, Sickers.